Azione Floppy, operatore Luca, in QSX sul canale 10, in attesa di qualcuno. Ciao Luca. Ciao Carlo, ben sentito. Allora, come va Luca? Beh, va meglio, dai. Poi magari tu non c'eri ieri, non hai saputo, ma sono a casa a riposo. Ah, allora non stavi bene. No, martedì ho avuto un calo di pressione con una forte frequenza cardiaca e mi hanno portato al pronto soccorso e mi hanno detto che ho lo stress e quindi che mi devo dare una calmata. E quindi mi hanno dato 3 giorni di riposo e rientro al lavoro lunedì. Ah, mi spiace. Insomma, non sapevo niente perché ieri sera sono uscito, sono rientrato tardi, erano le 9:30, 10:20 quando sono rientrato, ero fuori perché in questi giorni io non sto andando a lavorare perché ho un po' di ferie e quindi niente, oggi sono a casa anche perché la serata si è messa un po' brutta, sta piovendo e quindi ero qua al computer navigando su internet così, guardandomi un po' di notizie, di sport eccetera, ascoltando musica e allora adesso ho acceso la radio e anche poco fa ho provato a chiamare, ho detto non mi ha risposto nessuno e niente, eccoci qua e quindi ti devi tranquillizzare, molto probabilmente stress sì te lo può provocare, comunque se la pressione è bassa dai, non dovrebbe essere, capito, niente di importante, dai, e poi te l'avrà detto anche il medico, un po' di tranquillità già fa bene, te ne stai a casa, se ti danno i giorni che ti danno te ne stai a casa tranquillo e pacifico, fai cose rilassanti, senza stress e senza nessuna arrabbiatura, capito? Sì, il ritmo, gli orari, le troppe ore, le continue telefonate, le incazzature con i colleghi, tutte cose da evitare. Purtroppo gli orari quelli sono, bisogna farli, però bisogna cambiare stile comportamentale, farmi scivolare le cose di dosso, tanto non è mia l'azienda e non me ne intestano un pezzo a fine anno, per cui l'incarcatore se ne prende il titolare, non io. Va bene, cosa ci vuoi fare? Io lo stesso, ho fatto un po' di ferie a gennaio, sino al 9, sono rientrato il 10, e adesso sono in ferie dal 1 sino al 13, anzi sino al 12, il 13 praticamente non sono ferie ma avevo un giorno di riposo, quindi sono 12-13, rientro il 14 febbraio, rientro al lavoro e poi ho chiesto un'altra settimana dal 7 al 14 a marzo, me le hanno già accordate, così taglio un po' i mesi, gennaio, febbraio, marzo e mi riposo un pochettino prima che poi inizi la stagione, perché noi con aprile iniziamo a stressarci molto perché iniziano tutti gli altri voli, le destinazioni europee eccetera, quindi iniziamo a avere, che ne so, 20 voli la mattina, 12 e 18 la sera, capito? Ed è uno stress continuo perché siamo anche pochi finché non arrivano gli stagionali, ma gli stagionali dovrebbero partire dal 1° di aprile e quindi un po' di, diciamo, di riposo a casa in relax non guasta. Anche mio fratello inizierà stagionale in aeroporto dal 1° aprile. Ma lavora all'aeroporto di Alghero? Urbia, ogni tanto lo mandano in trasferta ad Alghero, lui fa l'avio rifornitore. Ah sì, forse me l'avevi anche accennato, giusto. Sì, perché da noi viene World Fuel, mi sa, per rifornimenti, capito, le cisterne del gasolio. D'estate è un via vai di quelle autocisterne perché consumano un sacco di carburante, capito, gli aerei e ce ne sono tanti, quindi rifornimenti a go-go. Il rapporto tra Olbia e Alghero è 10 a 2, Olbia è una cosa impressionante, tant'è che ci sono due rivenditori, c'è la World Fuel, quella che hai nominato tu, e la Carboil, sono due a Olbia che vendono e si fanno la concorrenza. A Alghero c'è solo quella, ma a numero di cisterne che arrivano dai depositi di San Rocco e di Porto Torres, su Alghero sono magari due al giorno, mentre su Olbia ne arrivano otto al giorno, una cosa del genere. Sì, beh, il traffico là è superiore perché hanno più destinazioni, lì ovviamente c'è la Costa Smeralda ed estate lì lavorano quei tre mesi. Alghero lavorava bene anche d'inverno, che poi hanno tolto tutti i voli, perché praticamente prima la società di gestione lavorava col co-marketing, che è una forma di finanziamento per le compagnie, quindi Ryanair prendeva i soldi dalle società di gestione e poi anche qualcosina dalla regione, e quindi anche d'inverno Alghero lavorava, capito? Non c'erano tantissimi voli, ma ce n'erano abbastanza, tipo Londra c'era tutto l'anno, Barcellona c'era tutto l'anno, Madrid, poi c'era Francoforte, sempre voli tutto l'anno, ecco, magari con due o tre volte a settimana solamente. E poi avevamo Parigi, e voli per la Polonia, Varsavia, senza poi contare i paesi dell'est, c'è Budapest, Bucarest, quindi Romania, Bulgaria, insomma un sacco di voli c'erano prima. Invece adesso il co-marketing hanno detto che non si può più fare, quindi le società di gestione non ci rimettono i soldi di tasca, la regione non molla più niente, e quindi cosa fanno? Le compagnie low cost lavorano solo d'estate, ed inverno ci sono solo i voli della continuità, quindi è un deserto sia ad Alghero che a Olbia, capito? È così, e quindi anche alberghi, ristoranti, la stagione l'aprono tutti dal 1° di aprile, capito? Solitamente con la Pasqua, dai, a volte anticipano un pochettino, ma il grosso è dal 1° aprile sino al 30 di ottobre. E almeno come parte la stagione porta un po' di lavoro, perché questo periodo è veramente triste, c'è veramente poco in giro. Esatto, poca roba. Io stamattina lo stesso ho fatto un giretto, sono andato a Predanieta, ho visto che stanno un pochettino sistemando le strade, meno male, perché lì ci voleva il fuoristrada per camminare, e diciamo ne stanno sistemando, rattoppando più che altro, però almeno quelle buche profonde che c'erano le hanno quasi tutte eliminate, dai, perché hanno decentrato lì tutta l'area commerciale di Sassari, capito? Però il comune se ne è lavata le mani, invece quella è nata come zona industriale, prima c'era il consorzio che è fallito e si occupava delle strade, della viabilità, adesso il consorzio industriale sardo non c'è più, il comune ha fatto sì che tutte le attività commerciali si trasferissero lì, però il comune non fa niente, capito? Invece è il comune che deve provvedere, perché praticamente Predanieta ormai è diventata un allungamento della città, tu vai lì e trovi ristorazione, trovi parrucchieri, trovi qualsiasi attività, negozi di scarpe, gioiellerie, tutti i negozi che prima erano al centro li hanno decentrati lì, quindi quella zona lì va messa e sistemata bene, e dovrebbero impiegare un po' di persone, dare lavoro, invece il comune se ne infischia, così è. Vabbè, a te il microfono, Luca. E adesso il 14 inaugura anche un nuovo negozio di accessori per moto lì a Predanieta, che invece di aprire in centro, che è pieno di negozi sfitti, di locali fermi, apre anche quello a Predanieta, tutto a Predanieta, e Sassari si svuota. E Predanieta che oramai è diventato un imbuto di traffico con colonne pazzesche, strade che ci potrebbe passare la Parigi-Dakar, Sassari, come si chiama? Parigi-Sassari-Dakar, tutto buche che ti sfasciano braccetti e ammortizzatori, e la gente continua a aprire le attività lì. Ora dove c'era Mara hanno già gettato plinti e pilastri per un nuovo capannone e non so di che tipo di attività aprirà. Stanno ampliando vicino all'AMD, stanno ampliando anche lì dove c'è Brindisi, quello del camion. Insomma, stanno facendo tanti di quei lavori, tutto a Predaniede, l'edilizia a Sassari è ferma. Per esempio, se tu prendi la via dove c'è la Renault, no? Quella via dritta, dove insomma alla fine esci nella rotatoria grande, c'è Vestis a destra, capito, e giri verso Tecnomat, tutta quella zona lì. Lì stamattina stavano asfaltando, c'era una fila di macchine, quindi io ho fatto il giro, tanto dovevo andare da un'altra parte, però c'era tutta la fila delle macchine perché c'erano i mezzi che stavano aggiustando la strada, capito? E vabbè, meno male che stanno provvedendo dopo tanto. Le proteste dei cittadini evidentemente hanno fatto breccia nell'amministrazione comunale e hanno messo mani al portafoglio adesso. L'amministratore comunale pensa a suonare la chitarra, altro che. Non è entrato nessuno, no, stasera. Io ho acceso, sarà una mezz'oretta fa, ho sentito qualcuno in lontananza, ma non doveva essere gente locale, magari qualcuno passando in zona. Poi non ho sentito più nessuno, capito? C'era un QRM notevole qua sul canale 10, si sentivano stranieri sotto in mezzo al rumore. Sì, sull'11, se tu vai sull'11 ci sono gli americani che arrivano a bomba con segnaloni 7, 9, capito? Molte volte vanno in FM e quindi sblatterano un po' anche sul 10, capito? E sblatterano parecchio sul canale 10 perché usano un sacco di potenza quelli lì, poi basta anche un po' di propagazione e li senti fortissimo. Sicuramente hanno i pannelli fotovoltaici per non pagare la bolletta, se no guai. Infatti, lì per alimentare quelli sparano roba di 2000-3000 watt come minimo, chissà che roba di radioni HF che hanno. Le radio alla fine HF saranno le solite, tanto non è che lì hanno marche diverse o cose nuove. Sì, cavolo, tu adesso mi arrivi, perché ho sistemato un po' meglio l'antenna e mi arrivi quasi in fondo scala, se stai uscendo pulito è un ottimo segnale, capito? La radio è lo stesso buona. Liscio, zero vitamine, e sto imparando a tenere il microfono lontano, tant'è che lo lascio appeso al suo supporto e schiaccio portante col braccio allungato, perché altrimenti di istinto porto il microfono alla bocca e vado in saturazione. Sì, se stai usando un microfono preamplificato, sì, lo fa quello lì. Lo devi tenere un po' staccato, sì, un po' lontano dalla bocca, se no va in saturazione, certo. No, non è un microfono amplificato, è un microfono dinamico, ma è pesante, quindi penso che ci abbia una buona capsula all'interno. Quelli amplificati, che sapete io, hanno le batterie. Questo è un normalissimo microfono palmare, c'è scritto Dynamic Microphone. Sì, ho capito. Sì, sono buoni quei microfoni. Infatti quando tu schiacci si sente proprio il rumore meccanico, capito, del tasto PTT che va dentro, capito? Si sente il rumore un po' della molla, della pressione, perché diciamo amplifica bene i rumori e quindi si sente tutto. Bene Meda, vediamo se c'è qualcuno sul 10, avanti, canale 10, c'è qualcuno che vuole entrare. Tutta a quest'ora la gente deve essere in panciolle ancora a riposare. Stasera c'è la Coppa Italia, è iniziata da ieri, stasera c'è Atalanta-Juventus, la danno su Italia 1, però mi sa che tu il calcio poco lo segui, Luca, se non sbaglio. Guarda, guardo la, se c'è la Juve, metto il canale dove c'è la Juve e poi col tablet mi guardo un film e ogni tanto butto l'occhio, guardo il risultato, magari sento il commento che si sta alterando per qualche bella azione e vedo il replay, però non mi interessa, preferisco mettermi tante volte la sveglia alle 4 del mattino per seguire la box piuttosto che guardarmi una partita di calcio. Beh, ognuno ha i suoi gusti, giustamente. Sì, io non è che sono neanche super fanatico, ecco, sì, seguo un po' il calcio così a livello di Serie A, di campionato nazionale, ma non è che seguo gli altri campionati, non mi interessano più di tanto. Poi così ogni tanto un po' di basket, la Formula 1 mi piace, e gli incontri di box non li danno ormai più, per vedere box devi avere DAZN, cose del genere, oppure te li devi andare a cercare su YouTube, capito? E prima era un'altra cosa, tanti anni fa, quando c'era Foreman, insomma, in quel periodo lì, che li davano alla Rai e ti alzavi anche alle 3 di notte per vedere quegli incontri, perché erano bellissimi, capito? Ed era sentito il pugilato, ormai è un po' in disuso, secondo me, come sport, perlomeno qua, come visione, ecco, dico, non dico come sport in generale. Io seguo molto il basket e quello lo guardo anche in televisione, sono 25 anni che sono abbonato alla Dinamo e la seguo da sempre. Il basket rimane ancora abbastanza pulito rispetto al calcio e poi mi piacciono non solo la box, anzi la box forse è l'ultima delle discipline di arti marziali o da combattimento che mi piace. Mi piace molto la Thai box, che l'ho seguita e praticata da tanti anni. Poi oramai la moda ha portato alle MMA, quelle che tutti vedono come zuffe disordinate, perché magari non ci vedono la tecnica e la preparazione dietro. Quelle sono attività, quelli sono sport che mi piacciono proprio, quelli li seguo molto. Ho fatto corsi, ho attestati come Catman dell'angolo per la chiusura di ferite, per i bendaggi. Gli sport da combattimento mi piacciono proprio tanto e ci vedo ancora abbastanza pulizia, non certo a livelli americani che sono pieni di vitamine come quelli che hanno le vitamine qua in frequenza, però ci vedo molta educazione negli sport di combattimento, nonostante la loro brutalità, chiamiamola, li vedo molto come scuola di vita per i bambini, mentre le scuole calcio sono scuole di antisportività, insegnano a mentire ai bambini, entra in area come ti tocca, buttate a terra che ci danno il rigore, sono proprio antieducative, il calcio è diventata solo una porcheria. Nel basket c'è molta più eleganza, negli sport da combattimento la prima cosa che si insegna è il rispetto, e quel rispetto lo porti anche fuori dalla palestra, ed è una scuola. Sì, sì, è vero, sì, perché anche mio figlio da piccolo faceva judo, l'ha fatto per diversi anni, sì, glielo dicevano, solo in combattimento, non usate mai queste cose, per quello ti do ragione, già è così. Sì, il calcio è sempre stato così, ci sono sempre state le finte, le simulazioni, insomma già lo sappiamo com'è, ma lì dipende anche dagli arbitri, e se hai un bravo arbitro, capito, fischia solo quello che deve fischiare, il resto lo fa andare, e come si diceva, vai e fischia poco, il calcio all'inglese forse è meglio di quello italiano, capito, almeno ti danno i falli essenziali, qua sembrano tutti signorinette, si toccano, sembra che stiano perdendo l'arto, eccetera, e poi dopo pochi minuti si sono di nuovo a correre a tutte scene, capito? Quello già è vero. Oh, yeah. E comunque niente, io ho testato questa antennina e già sta andando benino. La devo tarare, solo che non trovo mai un giorno, o piove, oppure la mattina devo uscire presto e poi mi dimentico, perché la devo un po' tarare, devo abbassare un po' il rosso, ce l'ho in alcuni canali a 1,2, però se vado a 40 mi sale a 1,5, e se riesco a abbassarlo un altro pochettino è meglio, devo praticamente portarla un pochettino giù e con una chiavetta esagonale, poi c'è un puntale che devo alzare o abbassare e vedere se riesco a regolarlo un po' meglio, dai, perché qualcuno mi ha detto che addirittura se la tari bene ti dà zero di onde stazionarie questa antenna qua. Diciamo la prossima settimana se vedo qualche raggio di sole, tanto 20 minuti ce l'ho vicino alla camera da letto dove ho tutto, capito? Quindi già impiego poco, c'ho la porta finestra, esco e vicino sarà 7 metri ho l'antenna, capito? Nell'angolo opposto del terrazzo. Sì, qua stai arrivando benissimo, 9-10 e c'hai i picchi positivi come parli, quindi sta uscendo bene. E ti converrà fermarti a Centrobanda, sul canale 20, a metà strada, e tararla su quello, credo, nella mia inesperienza, ma penso che sia la soluzione migliore, fargli la cordatura a metà strada tra canale 1 e canale 40, in modo che sia equidistante e equilibrato un po' per tutto. Sì, esatto, anche io come riferimento prendevo sempre il 20, capito, e poi dovrei riuscire a dare una regolazione migliore. Comunque addirittura c'è il puntale di sotto che, se vuoi fare una regolazione ancora più fine delle onde stazionarie, devi toccare anche quella e alzarla o abbassarla leggermente, però prima vedo un po' il puntale com'è e poi vedo il radiale di sotto, ma diciamo a primo colpo l'ho messa e già va molto meglio, almeno le stazionarie a 1,5 sono accettabili, capito? Solo che se riesco ad abbassarle ancora meglio, capito? Se almeno a 1, a 1,1, capito? Se ce li ho dal canale 1 al canale 40 a 1,1 va benissimo, capito? Io ce li ho 1,1, ora che sto parlando sto guardando ed è 1,1. Sì, così è perfetto, tu vuol dire che hai trovato subito la quadra e quindi è un ottimo segnale SVR, capito, quello lì. Se a 1,1, io con l'altra antenna che avevo prima a casa ero sempre così, in qualsiasi banda andassi, se andavo anche in altre bande, no? Un po' sotto e un po' sopra, non saliva nemmeno, sempre a 1,1 rimaneva 1,1, addirittura in alcuni canali anche al di sotto dell'1, capito? Quindi quella era perfetta, ce l'ho smontata in garage, quindi se avrò la possibilità poi di metterla sul tetto, con quella ho fatto bingo. Vedi, ora sei salito a 9,20, 9,30, magari cambiano le condizioni anche là ogni tanto. Ma io ti consiglierei, ho comprato questo attrezzino, questo accordatore automatico, l'ho comprato su AliExpress e l'ho pagato 38 euro, si chiama ATU, Ancona, Torino, Udine, -100, e ti accorda l'antenna, la puoi mettere col ROS che vuoi e lui automaticamente ti porta le stazionarie a 1,1, 1,12, costa poco e fa il suo lavoro. L'abbiamo testato non qua da me, ti accorda non su canali sopra o sotto, su canali molto molto sopra e molto molto molto, e aggiungo molto molto sotto, è spettacolare. Buono, Allora, ripetimi la sigla ATU, quello lo ATU, e poi il numero com'era, che così me lo guardo e vedo un po' le caratteristiche. Dovrebbe essere un accordatore d'antenna, capito? E già è buono. Se insomma ti riesce a trovare una regolazione, vuol dire che è ottimo. ATU trattino 100. Funziona da 1.8 a 55 MHz con potenza massima di 100 watt, oltre probabilmente non lo regge. Funziona a batteria e c'ha il connettore USB per ricaricare quando va giù di batteria. Lavora bene, l'abbiamo provato su altre bande e accorda quanto c'è. Ancora un po' lo attacco allo stendino e mi accorda allo stendino. Benissimo, adesso me lo cerco su Google, tanto sono al computer e voglio vedere cosa mi trova, perché tu mi hai detto l'hai trovato su AliExpress. Sì, l'ho trovato su AliExpress e lo puoi acquistare in diverse modalità. 38 è riferito a già assemblato, che è una scatolina nera con un pulsante davanti per il reset verde, l'interruttore on off e un piccolo display dove ti dà la potenza di uscita, le stazionarie. Dietro c'hai i due connettori PL di ingresso e uscita e niente di più, è nero e piccolino, ma nelle modalità di acquisto a 38 lo compri così, pronto all'uso, altrimenti lo puoi comprare che costa molto meno ma da assemblare, quindi ti danno la schedina con tutti i componenti sciolti ed è tutto da leggere lo schema, saldare, assemblare, fare le spirali lì dentro quelle induttanze o che cosa sono, ma troppo attento, soggetto a errori eccetera. Io l'ho preso già assemblato, 38 euro, l'abbiamo collegato per provarlo e ci ha dato soddisfazione, non tanto a me che mi reputo ignorante in materia, ma a chi me l'ha controllato che invece mi può fare da maestro. Sto guardando diversi modelli che ci sono, ATU trattino 100 da 1.8 a 55 MHz sino a 100 watt, c'ha il tasto di accensione, spegnimento, power, poi c'ha un pulsante verde, poi c'ha l'attacco, non so se USB-C credo, e poi c'è un piccolo display, vedo, e qui sì, c'è un cavetto di va alimentato, quindi questo qua, con qualche caricabatterie, cosa del genere, ed è chiuso davanti con delle viti, con quattro viti in acciaio, una scatoletta quadrata, capito, e qua c'è pure su Amazon, vediamo quanto costa, 74 euro, mentre uguale invece, come hai detto tu, lo paghi molto meno. Sì, ripeto, lo stanno pubblicizzando molto, poi una volta che lo cerchi te lo ripropongono in tutte le salse, ovunque vai ti appare come pubblicità, perché oramai se cerchi una cosa poi, o se la nomini, ti appare sul telefonino, purtroppo siamo sorvegliati. Comunque io l'ho preso perché mi sembrava un business, e ho detto vabbè, mi gioco questi 38 euro e vediamo un po'. Come mi è arrivato non l'ho attaccato a niente, l'ho portato da un amico che ci mastica tanto, l'ha collegato lui, l'ha provato ed è rimasto contento lui per me, figuriamoci, quindi sono contento dell'acquisto. E beh, insomma, si possono spendere, sì, su AliExpress 3509, spese di spedizione gratis, no, magari si può anche provare, questo è uno strumentino che può tornare comodo, dai, perché se ti sposti di frequenza sotto, sopra, già serve per centrare bene, capito, e avere un ottimo segnale di onde stazionarie, capito. Sì, hai fatto bene a consigliarmelo, adesso vedo un po', uguale qua, se lo prendi su Amazon, il doppio praticamente costa, 74 euro contro invece i 35, 37 di AliExpress, capito? Eh sì, io l'ho aspettato un po' perché purtroppo con AliExpress non è velocissimo, però quando è arrivato ne sono rimasto contento. Perché per un accordatore è proprio passo passo come costo, capito? Gli accordatori costano quelli, diciamo, buoni, così, senza esagerare, dai 100 in su, capito? E quindi spendere 34 euro, insomma, mi sembra un ottimo prezzo, se funziona bene si può anche prendere. Beh, una sicurezza in più, perché così non stai mai a avere timore di stazionare se sali o se scendi, ma questo fa tutto da solo, perché poi c'ho anche un rosmetro analogico, però devi sempre lavorarci, fargli prima la caratura a lui, dopodiché provarlo in trasmissione. Questo invece si arrangia, capito? Sì, io di misuratori di ROS ne ho diversi, ne ho almeno due. Uno è della, come si chiama, della Albrecht, l'altro è invece un rosmetro della, non mi ricordo se era della CTE, e poi ho quello bello, capito, sempre analogico, che ha due display, insomma, però quello lì era della non mi ricordo, non era ZG, un'altra marca, e quello è un ottimo rosmetro. Ne ho, diciamo, diversi di quelli. Carlo, un attimo di bianco che mi sta arrivando una chiamata. Tranquillo, vai, già sono qua in ascolto io. Ci sentiamo dopo. Ciao, a dopo, Luca. Luca presente. Sì, Luca. Ho chiesto alla mia collega che mi ha chiamato per chiedermi delle cose di lavoro, gli ho chiesto se mi avvicinava i pacchi che mi sono arrivati di Temu e di AliExpress. Mi sono arrivato in ufficio e ho detto se me li passa a casa me li mette il sensore. È buono, dai, si fa la cortesia, è così. È solo che anche io a volte ho ordinato delle cose, ma cavolo, ci impiegano un sacco di tempo, hai capito, ad arrivare, e io sono da solo, capito, e quindi se ti arrivano a casa poi non ti trova il corriere, è un casino, puoi andare a recuperarli. Invece, per dire, se ordino da Amazon me li faccio arrivare al Lab o a Città Mercato, oppure da Tanit, o anche Viale Trento qua vicino c'è un Carrefour Express, c'ha i box, quindi me li faccio arrivare dove c'è posto, insomma, e poi vado e me li ritiro, capito, quando sono a comodo. E se no col corriere devi stare a casa ad aspettarlo, non sai se passano di mattina, di sera, non puoi uscire niente, e devi stare inchiodato a casa aspettando a loro, non va bene così. Quindi buono, dai, se te li fai arrivare al posto di lavoro, adesso te li avvicina la tua collega, già va bene. Sì, io ho la comodità che comunque sono in ufficio normalmente dalle 7, noi siamo aperti dalle 7 che apro io alle 18 che chiudo io, quindi i corrieri vengono anche allora ai pranzo, trovano sempre qualcuno, quella è una comodità grande. Diversamente, comunque, avessi avuto quel problema, sì, o fai un fermo posta presso l'Hub, oppure da un amico che c'ha un negozio presso la frutta e verdura di Tizio, e poi ti chiama l'amico, mica ti è arrivato un pacco, ecco, tutto lì. Ma pensa a te che ora sono andato su AliExpress a controllare cosa avevo ordinato, perché avevo ordinato e non mi ricordavo neanche che cosa. Perché evidentemente è passato tanto tempo, dai, se ci hai chiamato in arrivo fai tranquillo, già sono sempre qua, Luca. Eccomi Carlo, scusa, ma nel frattempo ho ricevuto un'altra chiamata. Sì, già ho sentito, infatti te l'ho detto, rispondi tranquillo, no? Non ci sono problemi, tanto sono qua io al computer, perché mi stavo, ho trovato in garage dei vecchi CD, e quindi ho detto adesso me li metto nel col masterizzatore, me li metto nel computer, capito? E quindi non ti copia però i titoli, ti copia il nome dell'album, l'anno, però poi ti dice tracce 1, 2, 3, però se tu cerchi su Wikipedia, capito, metti il nome dell'album e lui ti dà tutti i titoli in coda, fai copia e incolla e così te li copi, no, non stai a scrivere tu, perché magari ci sono anche canzoni per esempio in inglese, gruppi, ho trovato che ne so, Dire Straits, le hits, insomma Freddie Mercury, ho trovato un sacco di brani che CD che erano in garage, ho detto se no poi questi si rovinano, c'è Michael Jackson, c'ho anche Paolo Conte, anche roba italiana, Pino Daniele, Queen, Sade, capito, Samuele Bersani, perché poi poi c'ho Simply Red, Sting, ho trovato Supertramp, e quindi me li stavo mettendo tutti a posto, così poi se me li voglio mettere nella chiavetta, capito, me li posso ascoltare anche alla radio quando guido, capito, ti ascolti quello che vuoi. Molte volte collego il cellulare direttamente col Bluetooth e lo stesso anche col cellulare, ti ascolti la musica che vuoi, capito? Non, però sai, con la chiavetta inserita fai prima, perché ti selezioni l'album e te lo scegli, mandi la musica e ti ascolti tutto un autore, quindi stavo facendo questo lavoretto qua stasera per passare il tempo. La mia radio in macchina non ha la chiavetta ma il lettore di micro SD, quindi più o meno è la stessa cosa. Anch'io mi carico musica che piace a me, che più o meno è quella che stavi nominando, con l'aggiunta dei Simple Minds, degli U2, Vasco, io mangio pane e Vasco, e così quando sono in macchina me l'accanto. Infatti la gente pensa o questo è al cellulare col viva voce o sta cantando o è scemo perché sta parlando da solo. Sì, io già, a me piace un po' tutta la musica, capito, io anche mi ascolto di artisti italiani, Lucio Dalla che ha fatto un sacco di belle canzoni, capito, e già Paolo Conte mi piace lo stesso, poi anche Celentano, per carità, infatti di Celentano ho trovato un album, c'è sempre un motivo, che se non sbaglio risale al 2004, quindi non è neanche tanto vecchiotto, capito, l'ha fatto collaborazione con qualche canzone cantata, e c'è anche Mina, quindi due belle voci, dai, che oggigiorno non ne senti tante di voci italiane. Poi io già ascolto anche artisti stranieri, Anastasia, Amy Winehouse, mi piace Annie Lennox, capito, ne ascolto tanta di musica, non solo musica italiana. Io infatti qua c'ho il computer, in cucina invece ho un lettore lo stesso di musica Bluetooth che lo collego al cellulare e lì mi sento tutte le selezioni che voglio, perché c'ho Prime Music, capito, quando sei iscritto ad Amazon Prime c'hai sia Prime Video alla TV, ti scarichi l'app oppure le canzoni e là trovi tutto, quindi metto senza interruzioni pubblicitarie, capito, ti ascolti tutta la musica che vuoi, quindi ne ho in cucina, ne ho in camera da letto, anche in bagno c'ho la radio, una radio di quelle nuove che hanno il segnale non più in FM ma in, come si chiama, le radio che vanno adesso, la radio digitale, capito, e quindi ha un bel suono, a volte anche in bagno mentre si fa la barba eccetera mi ascolto la musica. Le web radio, sì, io musica italiana Celentano non mi piace, Dalla sicuramente sì, mi piace la prima versione di Luca Carbone quando era uscito col primo album, soprattutto quello che si intitolava Intanto da Sinofono non sbaglio un film, Vasco l'ho sentito, l'ho ascoltato dalle sue prime uscite, e l'ho visto in concerto 5 volte, ma concerti sono andato fuori a vederne tutti i tipi. Ho visto i Simple Minds all'Arena di Verona, ho visto i Cure a Modena, ho visto gli U2 sempre a Verona, e avevo visto addirittura il Duran Duran a Roma, e tutto quello che è passato in Sardegna l'ho visto. Musica italiana, ti ripeto, anche Ligabue, solo che poi mi ha dato un po' a noia perché alla fine le canzoni sembrano tutte uguali. E niente, io spazio, ho queste micro CD caricate con tantissimi brani e metto la riproduzione random, così salto da un genere all'altro e non sento mai le stesse canzoni. Sì, anche io faccio così, a volte le metto la selezione casuale e te le seleziona la radio, capito? Per non far sentire, se no ti fa sentire sempre lo stesso album, invece metti la casuale e lui scala e a caso te ne seleziona una. E sì, io ne ho tante, lo stesso di canzoni, di autori, eccetera. Un po' sul computer c'ho anche una, come si chiama, una memoria esterna, quelle grandi da... E quindi ne ho anche lì, capito? E quindi ogni tanto sto lì a passarmele dalla memoria esterna al computer, per non riempire troppo, quindi svuoto da una parte, riempio dall'altra, insomma, per passare il tempo, dai, perché la musica ti fa compagnia molte volte e quindi io la trovo, capito, rilassante per certi versi. Io dovrei mettere mano invece alle fotografie che c'ho sul computer, mettere in ordine, catalogarle o per anni o per argomento, perché ce ne sono a uffa non so quanti giga, ma se ne dovessi cercare una devo stare tutta la sera a cercarle in mezzo a tutte. Di quelle ho paura, lo stesso, di quelle ne ho paura, ne ho tante, tutte nella memoria esterna, capito? Prima ne avevo molte sul cellulare, però ti riempie troppo la memoria, perché oltre foto c'erano anche video, e io ho fatto tanti viaggi, capito, girato un po' anche in tutto il mondo, non solo in Europa, e quindi ne ho fatto, pensa che sono stato 14 anni fa in Australia per un mese, quindi ho girato tutto il Queensland, tutta la barriera corallina, poi dal Queensland siamo andati 10 giorni su nei territori del nord, siamo ripartiti da Darwin, e poi da Darwin siamo andati a Singapore, Singapore Londra e poi Londra Alghero. Rientrato, però un mese che avevo proprio staccato la spina a tutta la famiglia, poi ho girato Stati Uniti, sono stato in Canada, capito, sono stato nel Missouri, capito, in Montana, e abbiamo girato con mio figlio, perché mio figlio ha vissuto un anno negli Stati Uniti, quindi era andato a trovarlo, capito che lui era nel Missouri, quindi viaggi ne ho fatto anche negli Emirati Arabi, Tunisia, sono stato in Marocco, Turchia. Guarda, io ho paura a metterci mano a quelle fotografie, infatti le lascio tutte là. La mia paura è che il giorno che si rompe la memoria esterna perdo tutto, quindi ne devo comprare un'altra così me le sdoppio, e non credo che si rompano tutte e due insieme, capito? Almeno hai due supporti che ti possono salvare tutto l'archivio fotografico. Le copie di backup. No, io all'estero non ho girato, proprio per niente, è una cosa che mi manca. Però sono scelte, sono sicuro che iniziando diventerebbe una malattia perché mi piacerebbe troppo. Però sono state scelte, ho dedicato i pochi soldini verso altri hobby, mi sono tolto altri sfizi che non sono stati quelli del viaggiare. Io invece prima viaggiavo perché mia moglie aveva la mania dei viaggi, e quando ero insieme a lei capito, con tutta la famiglia stavamo sempre in giro. In Europa lo stesso, sono stato in Francia, sono stato in Inghilterra, anche in Scozia abbiamo visto il lago di Loch Ness, il Ben Nevis, insomma abbiamo girato poi anche in Spagna, ho fatto il tour dell'Andalusia, siamo arrivati sino a Gibilterra, capito? Tutta l'Andalusia abbiamo visto, insomma, tutti quei posti. Poi va bene, a parte che ero stato a Madrid, Barcellona, pure della Spagna ne ho visto un bel po', infatti non credo che ci ritornerò. Un viaggio che vorrei fare è Cuba, capito? E ci andrò da solo, ma ci voglio andare, capito? E se riesco il prossimo anno, ovviamente vado in agenzia, perché a Cuba non c'è niente di organizzato, quindi se non vuoi trovare amare sorprese è meglio fare tutto con l'agenzia, che ti dà il viaggio sicuro, gli alberghi, le escursioni poi che ci sono da fare all'interno una volta che sei là, capito? Perché se ti fai tutto tu, organizzi tutto tu, molte volte prendi delle fregature, arrivi lì, prendi la macchina in affitto, la paghi, poi non trovi la macchina, non trovi l'agenzia, capito? E bufale se ne prendono quando si viaggia. E io un po' di esperienza ce l'ho di viaggi all'estero, ma quando vai in certi posti è meglio andare col viaggio organizzato, capito, dall'agenzia. E quindi se riesco il prossimo anno, ovviamente là devi vedere il periodo dei monsoni, perché se ci vai tipo d'estate, quando qua è estate, là è il periodo delle piogge e c'è il rischio che piova tutti i giorni, capito, e quindi non puoi fare grandi cose. Se invece ci vai quando qua per esempio è inverno come adesso per esempio, allora là stai benissimo. Solo che ho avuto un sacco di spese l'anno scorso, mi sono dovuto comprare casetta nuova, e insomma ti paghi l'atto, il notaio, eccetera, e mobili e questo e quell'altro, quindi alla fine ho speso un bel po' di soldi, capito? E quindi adesso devo rimpinguare le casse, quando metto da parte un po' di soldi un viaggetto a Cuba me lo voglio fare. Cuba è Cuba. Io dovendo scegliere metterei in primis il Messico, poi come desiderio mi piacerebbe vedere le piramidi e poi a seguire solo zone con barriere coralline, perché la mia passione per le immersioni mi porterebbe lì, anche a Sharm el Sheikh piuttosto che non so dove, però dove sicuramente dove ci si butta in acqua con le bombole. Il Messico mi ispira, però le piramidi mi affascinano, la loro storia eccetera, quella è una cosa che mi piacerebbe vedere veramente. Sì, l'Egitto è bello, io ci volevo andare anche perché conosco una persona che vive ad Alessandria d'Egitto, lì sei a 70-80 km proprio dalla Valle delle Piramidi, capito? Mi ospiterebbe pure, mi ha detto quando vuoi venire, però non mi piace a me stare a cercare vecchi amici che non li hai più frequentati, quindi andandoci anche lì penso che farei qualcosa di organizzato, capito? Non ne ho più voglia io di stare a... C'hai l'albergo, la tua cameretta, le tue uscite, tranquillo e pacifico, rientri quando vuoi, mangi con chi vuoi, te ne stai in giro con chi ti capita e non hai nessun problema. E non devi niente a nessuno. Esatto, perché poi devi stare lì a ricambiare quando vieni, eccetera, non ne ho più voglia. Quando varchi la soglia dei 60 poi ti piacciono un po' le comodità, Luca. Sì, però sono tutti giochi con spese alte, e allora se uno decide di fare quel tipo di vita, di girare e fare quel tipo di esperienze, deve per forza, a meno che non sia figlio di Rockefeller, ma deve per forza rinunciare a qualcos'altro, perché tutto non si può avere. E io ho la barca, che è una dragunaggia di soldi, perché con la barca non si finisce mai, c'è sempre lavoretti da fare, sempre da spendere. e quindi uno o sceglie la barca e si fa le vacanze qua e si dedica alla barca, oppure la barca se la vende e si dedica a girare. E siccome la barca è un lavoro, ti posso dire che ci sto pensando anche a vendermi la barca e prenderla con più leggerezza il tutto. E anche perché secondo che barca è, insomma, richiede anche manutenzione, poi d'estate se la metti in acqua ti devi pagare il molo, insomma un po' di spesette se esci poi in barca, la benzina, se insomma spese di manutenzione ne ha la barca, quando ti muovi sono sempre spese. Il costo barca stiamo parlando di 3.000 euro l'anno, per darti un'idea. Appunto, sono un bel po' di soldi. Tu pensa, con quei 3.000 euro ti fai almeno due bei viaggi, capito? Spesato di tutto. Perché in barca vai in ferie e quando sei in ferie te ne vai in barca e ci sono due frigoriferi, ci sono due letti matrimoniali, c'è il bagno con la doccia calda perché c'è anche lo scaldabagno, c'è la cucina, il forno microonde, per cui è una casetta al mare. Allora ti fai, per contro del viaggio che ti lascia sicuramente tanti bei ricordi, di contro l'estate te la vivi a pieno perché ti fai tutti i fine settimana, dal venerdì notte alla domenica sera che rientri perché il lunedì lavori, sino ad andare in ferie, mamma permettendo, perché l'anno scorso poi mamma è stata male, ho avuto solo spese e niente barca perché sono dovuto rimanere a casa. Purtroppo infatti è così. Sì, è bella la barca. Dove ce l'hai tu, verso Alghero oppure da altre parti? Porto Conte, praticamente dove c'era il ristorante, discoteca, l'Imbarcadero. Sì, no, già lo conosco perché ce l'aveva lì anche un mio amico e poi l'aveva venduta e ce l'aveva lì a Porto Conte. Sì, già un bel posto lì, poi lì sei vicino a tutto, capito? È lo stesso, un altro amico che se n'era andato in pensione a 60 anni perché lui era in polizia, lo stesso lì ci aveva Porto Conte il gommone, poi l'ha lasciato di là, l'hanno dovuto chiamare, guarda che questo gommone si è bucato, sta imbarcando acqua, quindi mi ricordo che eravamo andati in fretta a recuperare tutto e c'era il motore mezzo sommerso, l'avevamo ripescato, insomma un casino. Però già è bella la barca, anche avere il gommone, per carità, però se hai la barca, come mai hai detto tu, che c'ha cucina, camere da letto, la puoi sfruttare anche come, insomma, posto per dormire al mare, anziché pagarti, capito, la casa, dormi in barca e te ne stai tranquillo. Il vantaggio di dove c'ho la barca io è che coi vicini lì al molo, essendo tutti il molo, sono tutti galleggianti, per cui non è acqua stagnante come nei porti che hanno i due bracci esterni chiusi, lì è tutto a palafitta o comunque galleggiante, per cui l'acqua è splendida sotto, è l'acqua del parco, anche dentro il porto. E noi siamo nella barriera più esterna, per cui abbiamo fatto colletta con i vicini, ci abbiamo comprato le scalette tipo piscina e quindi facciamo il bagno lì, è diventato un condominio, conta che organizziamo la cena di maialetti o il pranzo con i maialetti e mangiamo tutti assieme, ma parlo di tante persone, ci facciamo cucinare i maialetti dalla pizzeria, organizziamo la pecora bollita col pane di Bonorva, il pane zicchi, e lo cuciniamo col marmittone lì in banchina davanti alle barche, dal pomeriggio tagliamo cipolle, peliamo patate tutti assieme e sempre bevendo qualcosa, quindi immagina l'ambiente qual è, e ci divertiamo da matti, facciamo la cena e le cene che finiscono alle 4 del mattino con tutti in acqua, cioè si è creato un ambiente che è diventato un condominio, per cui non c'è il vicino di barca che lo conosci e lo vedi solo quando arriva, sale in barca e se ne va, tutti dormono lì e tante volte non si esce perché si sta lì, si convive lì ed è bello stare lì. Alle 11 c'è quello che lancia la voce, ma allora per i l'aperitivo non ne facciamo, e l'aperitivo ognuno porta qualcosa, diventa un pranzo e poi non si pranza perché ti sei abbuffato all'aperitivo, e diventa un gioco, ed è bello per quello. Esatto, sì, no, così già è piacevole, già va bene Luca, e quindi se hai già la barca là, quando vuoi ci puoi andare e ti fai le vacanze così, già è bello anche così, per carità, socializzare con le persone. Il Tiki di Bonorva già lo conosco perché io ci sono nato a Bonorva, quindi a Vuglia che lo conosco, e niente, già è buono con la pecora, poi non ce n'è. Proprio il mio vicino di Barca e di Bonorva. Ah, e come si chiama di cognome? Piduzza. Antonio. Bello. E io il fratello conoscevo. Andiamo molto d'accordo. E infatti magari nelle serate tranquille ognuno cena a conto suo, ti godi il tramonto, ti mangi le tue cosette, poi noi che siamo vicini, lui lancia la voce o io, tanto avvicinatevi che ci facciamo il caffè e ci prendiamo il digestivo, e lì chiacchieriamo in quattro con le signore e chiacchieriamo sino a tardi perché piace, è una persona in gamba. Già lo conosco, io ero molto amico del fratello, poveraccio. Fratello non c'è più, ragazzo sfortunato, morto giovane, aveva avuto prima un incidente in moto, era caduto dalla moto, una moto che gli avevano prestato, poi oltretutto era rimasto in coma più di 2 mesi, poi si era ripreso, insomma, piano piano, e poi come è andato a morire? D'incidente. Con la macchina, con un bandino, si sono sbattuti ad un albero nella strada tra Torralba e Bonnannaro. Avevano perso la vita in due in quell'incidente, erano in 3 in macchina, si era salvato solo l'autista e gli altri due, e c'era il fratello di Antonio, poverino, ed eravamo molto amici. Antonio lo conosco bene, fa il meccanico a Bonorva, quindi a Voglia. Sì, capa, c'è anche il centro revisione lì a Bonorva, ora ha aperto anche rivendita di gomme, insomma già dà un servizio completo. Sì, io ho sempre lavorato con i motori, Antonio c'aveva la passione da quando era piccolo, insomma, poi c'erano anche benestanti di famiglia, eccetera, quindi lo immagino. E Antonio